Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Fiam e Stefano Dolcetta, l'energia, le auto e il mercato internazionale, di Alessandra Scaglioni. Fornisce batterie alle principali case automobilistiche europee, ha conquistato il 70% del mercato americano, sta portando avanti progetti di energia rinnovabile, fattura più di 500 milioni di euro. La Fiam ha la sua sede a Montecchio Maggiore, nord-ovest vicentino, dove è nata negli anni 30 ed è oggi guidata da Stefano Dolcetta. Allora, Fiam è nata nel 1936, creata da Giacomo Pellizzari, che era un grande imprenditore del Vicentino, e nel 42 è stata comprata, acquisita al 100% da mio nonno. Quindi è stata gestita dal 42 fino ad oggi dalla famiglia Dolcetta, prima da mio padre, che però è morto ancora nel 57, e poi dai miei zii e dai miei, mio fratello e miei cugini, insomma, fino ad oggi. Era un'azienda considerata di rilevanza strategica e pertanto è stata tenuta aperta anche durante la Seconda Guerra Mondiale e richiesta la presenza proprio dei proprietari, quindi di mio padre, alla guida di questa azienda. Successivamente, con lo sviluppo del mercato auto, l'attività si è ampliata alle batterie avviamento e alle trombe. Con lo sviluppo del mercato dell'auto si amplia l'attività e cresce il numero delle aziende clienti. Sì, noi abbiamo cominciato prima, la prima attività era legata all'attività del mercato del ricambio, quindi successivamente con la crescita delle dimensioni e quindi anche con lo sviluppo tecnologico abbiamo cominciato a fornire le case auto, cominciando inizialmente fornivamo la Lambretta e poi successivamente abbiamo cominciato a fornire l'Alfa Romeo, la Fiat, l'Innocenti, la Ferrari e così via. Oggi siamo fornitori di parecchie industrie dell'automobile, anche internazionali, in Francia, in Germania, in Inghilterra. Se il primo momento di svolta è arrivato con il boom economico del secondo dopoguerra e lo sviluppo del mercato dell'auto, il secondo c'è alla fine degli anni 70, quando la Fiam guarda oltre confine e arriva prima in America, poi ancora più lontano. Insomma, abbiamo cominciato inizialmente nella maniera classica, cioè con le esportazioni dall'Italia verso i paesi europei prima e poi anche americani. Il primo stabilimento all'estero è stato negli Stati Uniti, dove, avendo vinto l'appalto, insomma possiamo chiamarlo così, della Ford per la fornitura di trombe, la Ford ha richiesto che noi costruissimo uno stabilimento negli Stati Uniti. E quindi, aiutati anche da loro, abbiamo prima costituito una joint venture e dopodiché abbiamo costruito uno stabilimento dedicato alla produzione di trombe, che si trova in Michigan, e a distanza di circa 30 anni possiamo dire che abbiamo il 70% del mercato americano. Dopo abbiamo fatto uno stabilimento per le batterie stazionarie, sempre negli Stati Uniti, e poi via via ci siamo espansi in Cina, in Repubblica Ceca, e ultimamente anche in Svizzera e in Francia. Oggi Fiam è presente in 60 paesi e ha 11 stabilimenti tra Brasile, Stati Uniti, Europa e Cina. Abbiamo cominciato con l'esportazione, dopodiché abbiamo, una volta che la nostra presenza era una presenza significativa, abbiamo rafforzato e consolidato la nostra presenza con delle fabbriche locali. In Cina siamo partiti, come si usava circa 10 anni fa, produrre in Cina per importare poi in Europa. Attualmente dobbiamo dire che la maggioranza del prodotto fatto in Cina resta sul mercato cinese. I dipendenti sono 3.250. Produce 40 milioni di trombe e avvisatori acustici. Lavora 100.000 tonnellate di piombo per le batterie. Il fatturato dell'anno scorso è stato di 550 milioni di euro, il 75% in Europa e il resto tra Cina e Stati Uniti. Alla guida non è rimasta sempre la famiglia Dolcetta. C'è stato un passaggio alla gestione manageriale, un'esperienza che in questo caso non ha funzionato. Dunque, questo è stato un passaggio un po' doloroso, no? Perché, voglio dire, la famiglia si era molto ingrandita, quindi gli obiettivi e anche le aspettative dei vari soci cambiavano. Forse anche non c'era una fiducia così diffusa fra i vari cugini, per cui alla fine si è scelto di mettere l'azienda in mano a un manager esterno. Bisogna dire che l'ambiente dell'azienda non ha molto accettato questa scelta, perché erano sempre abituati a vedere la famiglia al vertice dell'azienda. forse anche il manager non si è integrato, insomma, nello stile, nella cultura aziendale, per cui alla fine questa esperienza ha avuto un risultato negativo. Dopodiché l'azienda ha cominciato a non andare più bene, a performare in maniera negativa, c'è stato un disamore da parte di tutti dei vari soci e l'azienda era avviata a portare i libri in tribunale. Ecco, allora in quel momento lì, insomma, io ero molto legato a questa azienda, io ero fuori da questa azienda perché seguivo una mia società che avevo nel frattempo costituito e insomma ho deciso insieme con un altro mio cugino di acquisire la totalità dell'azienda dagli altri cugini e poi siamo ripartiti da di lì. Dal 2007 quindi la compagine azionaria si riduce a due gruppi familiari che fanno riferimento a Stefano Dolcetta, amministratore delegato, e ad Alessandro Dolcetta, vicepresidente. L'azienda ha ripreso quota e oggi le cose stanno andando meglio. Sì, oggi le cose stanno andando molto bene e molto meglio, diciamo, e soprattutto abbiamo, come dire, consolidato i business storici dell'azienda, e abbiamo consolidato la presenza nei vari mercati, stiamo investendo in nuove tecnologie in maniera massiccia e stiamo anche investendo nei mercati emergenti proprio per ampliare la nostra attività, insomma, a livello mondiale. Anche con l'internazionalizzazione, la sede centrale è rimasta a Montecchio. Ma sì, perché insomma la FIAM a Montecchio ha rappresentato per molti anni l'unica vera azienda, insomma, quindi l'unica vera possibilità di occupazione per le persone locali. E quindi in FIAM ormai lavorano i nipoti di quelli che lavoravano nel 42. C'è un legame, insomma, familiare con questa azienda. Noi poi abbiamo anche un po' investito nel territorio, nelle scuole, eccetera, c'è un ottimo rapporto, insomma, con la popolazione locale. Ecco, quindi, insomma, la popolazione locale, bisogna dire, ha dato molto a questa azienda, proprio in termini di partecipazione, di applicazione, di lavoro, e quindi, insomma, c'è un, come dire, una relazione, un vantaggio reciproco, insomma, ecco. E c'è poi il tema ambientale, che per un'azienda che lavora in questo settore vuol dire molte cose. Sostenibilità ambientale, riciclo, nuove energie, tema delle rinnovabili. Sì, le batterie al piombo presentano dei problemi, per esempio tutte le batterie che vengono abbandonate, quando vengono sostituite, devono essere raccolte e devono essere riciclate, questo proprio per legge. E questo è un grosso impegno, perché il piombo, sappiamo tutti, è una sostanza inquinante e quindi non può essere lasciata allo stato libero, ma deve essere raccolta e riciclata in appositi siti. Il settore di interesse per il futuro della FIAM viene definito Energy Storage. La fabbrica di batterie al sale acquistata in Svizzera rappresenta un primo passo e le potenzialità sono molte. Si tratta di integrare centrali di generazione energia a pannelli fotovoltaici con sistemi di accumulo di energia tradizionali. Sì, noi abbiamo comprato questa fabbrica in Svizzera che produce queste batterie al sale, al cloruro di sodio, diciamo così, e noi abbiamo anche avviato un'isola di energia in uno stabile vicino alla FIAM, dove abbiamo un magazzino logistico, e quest'isola di energia produce energia da pannelli fotovoltaici, accumuliamo l'energia in queste batterie e il 40% di questa energia prodotta e accumulata viene utilizzata direttamente dalla FIAM, mentre il rimanente 60% in questo momento viene rimessa in rete. In teoria noi potremmo accumulare il 100% e utilizzare il 100%. Questa isola di energia è in grado di produrre energia sufficiente per alimentare 50 appartamenti, 50 famiglie nell'arco di un anno. Quindi loro sarebbero totalmente autonome grazie a quest'isola di energia. Ne faremo una anche in Cina adesso. In Cina c'è un grandissimo problema, no? Di produzione di energia. Spesso le fabbriche cinesi si ritrovano in assenza di energia. Le prospettive per FIAM sono di investimenti e di crescita. La strada è verso l'innovazione. Noi vogliamo crescere perché riteniamo che le dimensioni del gruppo FIAM non sono ancora adeguate a una presenza globale, no? Noi vogliamo essere presenti in tutto il mondo e dove siamo presenti vogliamo avere una presenza significativa. Quindi questo ci porterà a fare dei grossi investimenti per crescere in termini di organizzazione e in termini anche di evoluzione dei prodotti che stiamo attualmente fabbricando e vendendo. Però dopo riteniamo anche che dobbiamo investire nelle nuove tecnologie, e una delle nuove tecnologie sarà sicuramente legata alle batterie adatte al cosiddetto energy storage, cioè quel sistema che mi equilibra l'offerta e la domanda di energia. Se io produco energia da fonti rinnovabili, ho una produzione che non è programmabile nel tempo, mentre io ho la domanda da parte degli utenti che invece è programmata. Ecco, bisogna conciliare una domanda non programmata con una domanda invece, un'offerta non programmata con una domanda programmata. E questo si può fare solo se io ho un magazzino in cui accumulo l'energia e poi rilascio quando mi viene richiesta. Questo è un settore su cui a livello mondiale tutti stanno investendo ed è una grossa opportunità per un fabbricante di batterie, e quindi noi vogliamo essere presenti proprio in questo settore. Ma qualcosa che riguarda i sistemi di energia alternativa, FIAM ce l'ha anche nel suo passato, è qualcosa che gli è rimasto nel nome. FIAM vuol dire Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio, perché questa azienda subito dopo la guerra o durante la guerra produceva dei motocarri a trazione elettrica, quindi è stata antesignana, diciamo, se, rispetto ai tempi attuali, solo che questi motocarri avevano una... potevano percorrere pochi chilometri, non erano molto pratici, però a quei tempi mi si diceva mancava il combustibile, per cui si andava con queste batterie. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.